Chi rompe il ghiaccio? Faccio io una domanda allora. No, effettivamente sono stato. Ma non per colpa nostra, per motivi climatici. Sei tornato alla grande glaciazione, sono tornati. Lei, il professor Sciacco prima diceva faceva riferimento a evoluzione multilineare, soprattutto in riferimento al discorso passaggio dalla linea alla rete e così via. E però ha concluso dicendo, facendo riferimento a Germani, sul discorso della modernità, dello sviluppo. Una riflessione che facevo è, ad esempio, la Cina è un fenomeno che sta emergendo in maniera dirompente e che probabilmente nei prossimi anni diventerà ancora più importante. Però è anche vero che se da un punto di vista economico è indiscutibile che loro stiano avendo uno sviluppo velocissimo e molto, molto grande, è anche vero che per esempio dal punto di vista di sviluppo della democrazia non è altrettanto. Per cui mi chiedo, nel discorso dell'evoluzione multilineare, come si inserisce il discorso della modernità? Nel senso, se si cominciasse a pensare di studiare i fenomeni, prima di tutto a livello mondiale, considerando quindi Stati Uniti, Cina e non solamente da un punto di vista eurocentrico, il discorso della modernità potrebbe reggere ancora oppure sorgerebbero dei problemi? Ma dunque, prima di tutto mi verrebbe da rispondere con una battuta, nel senso che questo è un tema per certi versi sul quale litigo costantemente, Alfredo Canavera lo sa, con Piero Stellino, perché secondo me la Cina è, la Cina, ma potremmo anche citare altri casi, è l'esempio di come tutta una serie di cose che ci hanno raccontato sull'89 pensatori o giornalisti o scrittori sedicenti liberali, e soprattutto in Italia un po' quelli che sono liberali alla vaccinara, no? Che dopo l'89 democrazia, sviluppo economico sarebbero andati in pari passo. È la cosa, appunto, mi sembra che la Cina perché non la riescono a prendere da nessuna parte alla fine, perché è un caso tipico ormai di capitalismo, perché non penso che possa, di Stato, ma capitalismo, anche lì c'è sempre il discorso Stato-capitalismo, in cui peraltro aveva già dimostrato il Cile, insomma, tanti altri non erano, ma questi, ma su questo poi cadono, tant'è vero che ti rispondo, ma no, non basta solamente il mercato. Prima dicevo, bastava il mercato per avere la democrazia. Siccome adesso si accorgono che così non è, dicono, ma no, ci vuole la società aperta per avere la democrazia. Questa è la nuova. Però, insomma, questa è una battuta. Però in realtà, quello che diceva lei, i processi di modernizzazione possono avvenire anche, possono essere slegati, tant'è vero che si sostiene che, giustamente, che per esempio noi assistiamo a processi di modernizzazione in Olanda, in Francia, in Inghilterra, in epoca moderna, in epoche tra la fine del 500 e l'inizio del 600, che precedono invece le rivoluzioni politiche del 700. Quindi di per sé anche la storia dell'età moderna europea dimostra che possiamo avere, come sapete, cioè, De Felice sostiene, la scuola De Feliciana, ma non solo, che il fascismo sia stato un esempio di modernizzazione per eccellenza nella storia di questo paese, ancora una volta, quindi un processo di modernizzazione su quale poi, sulle cui caratteristiche bisognerebbe intendersi, che è snegato da processi di democratizzazione della politica. Quindi è un caso tipico, se vuole, di analisi multilineare, nel senso che bisognerebbe analizzare campo per campo quello di cui stiamo parlando. Questo è tutto un altro discorso ancora. Un discorso sulla verità, nel senso che quando qui c'è la verità, Questo è tutto un altro discorso per cui che cosa è fatto, che cosa è storia, che cosa è evento storico, che cosa è giornalismo. Per esempio secondo Aron non ci sono poi tante distinzioni, lui fa tutta una discussione riferendosi alla discussione tra filosofi e analisti. Questo è più un tema per certi versi filosofico, secondo me, che poi non so neppure lo, io un pochettino sto leggendo perché mi interessa come tema la discussione che c'è tra filosofi analitici ed ermeneutici su questo tema, ed è una discussione interessante. Gli stoici di solito, almeno io personalmente, mi ritengo un po' più grossolano su questi temi, insomma. Nel senso che ci sono dei fatti che sono universalmente riconosciuti dallo storico come fatti storici in quanto tali, la prima guerra mondiale, tanto per dirne una, e ci sono altri che diventano invece un caso tipico dell'esercizio di quel rapporto tra oggettività del fatto, dell'evento e soggettività di chi lo vive. E da quel... Sì, no, sì. Allora, i miei studenti dicono, il fatto che noi stiamo qui in quest'aula è un fatto storico? Direi di no, almeno alle 12-10 del 25 novembre. Se però adesso arriva un aereo di Al-Qaeda e spunta direttamente in quest'aula e ci fa fuori tutti, diventa un fatto storico. E quindi c'è uno spostamento, eccetera. Poi considerare il dato della soggettività. Non è un fatto storico, però per la storia della soggettività della vostra associazione è un fatto che riguarda la storia, se la vostra associazione si iscriverà nella storia perché rientrerà nella storia della vostra associazione. Oppure per lei personalmente è un fatto storico. Ma se lei diventa, no, di per sé potremmo dire di no, ma questo rientra sempre il discorso ex post. Ma se la signorina che adesso ha alzato la mano diventerà, non lo so, la sua fidanzata e la sua sposa, che è subito abbassata, non so perché, evidentemente per la vostra storia soggettiva, ex post lo diventa. Quindi ha capito il discorso, va considerato il discorso ex post di cui facevamo riferimento prima, e poi la soggettività delle persone che sono coinvolte nell'evento che si svolge, perché non bisogna mai dimenticare, ma qui è veramente un altro genere di discorso, il rapporto tra oggettivo e soggettivo. Sì, c'è se qualcuno poi è interessato ad approfondire, ci sono delle belle e anche divertenti pagine di Edward Carr nelle 6 lezioni sulla storia in cui esamina proprio questo fatto, facendo riferimento a un evento, no? Il famoso venditore di pan pepato che a un certo punto viene linciato dalla folla. Allora, questo è un fatto storico o no? E lì ci sono tutta una serie di considerazioni, ma la risposta vera è dipende, cioè un po' come quelli che dice la mia ultima e definitiva risposta è può darsi. Qui dipende, nel senso che se un certo fatto poi incide sullo sviluppo successivo della vicenda storica, evidentemente è un fatto storico. Se rimane una questione di tipo privato, non incide o incide meno, o incide solo se il tipo di storia che si vuole fare è un certo tipo. Voglio dire, il fatto che uno si sposi o non si sposi in genere non è un problema storico, ma lo diventa per chi si occupa della storia del matrimonio o si basa sulle statistiche matrimoniali per parlare dello sviluppo di una determinata società. Qua. E se viene. Però Andiamo avanti nel 1800, cioè appunto si parla del 1830, del 1848, poi comunque se si vuole si può considerare il 71 la Comune di Parigi, andando avanti poi si arriva al 1917, dopo il 17 ancora si può trovare una cosa di rivoluzione, cioè non capisco il senso di parlare di questa rivoluzione. Ma il senso è intanto trovare una fase di passaggio che faccia comprendere come la storia non passa da un momento all'altro, dall'età moderna, quindi fine dell'Ancien Régime e tutte queste cose, all'età contemporanea. E poi anche per il fatto che tutte queste rivoluzioni a cui si faceva cenno hanno alcune caratteristiche comuni che altre rivoluzioni non hanno. Sono tutte in genere rivoluzioni borghesi, non sono rivoluzioni proletarie, per cui sarebbe più arbitrario dire che nell'età delle rivoluzioni si comprende anche la rivoluzione russa. Sono tutte rivoluzioni che avvengono in un periodo di tempo relativamente ristretto, che si concludono con l'approvazione di carte in cui si elencano i diritti, i doveri del cittadino. Quindi si parla di età delle rivoluzioni perché quel tipo di rivoluzioni hanno avuto delle caratteristiche che possono essere considerate comuni. Ovviamente poi ciascuna aveva le proprie peculiarità, perché ogni fatto storico è un qualche cosa a sé. Per cui si può comunque trovare un minimo comune denominatore di questi avvenimenti che ci può permettere di parlare di età delle rivoluzioni. Sì, aggiungerei un'altra cosa, anche la riflessione storica, cioè quella che noi chiamiamo la storiografia qui in Italia, va periodizzata, perché alcune riflessioni nascono non casualmente in periodi storici precisi. La discussione sulla rivoluzione, le rivoluzioni atlantiche nascono negli anni 50, quando cominciava la prima revisione rispetto alle interpretazioni giacobine e marxiste della rivoluzione francese, e quindi era il tentativo di affiancare ad un'interpretazione che vedeva la rivoluzione francese come tale, come dato centrale, anche una rivoluzione che aveva connotati ancora più evidentemente di carattere borghese, esclusivamente, mentre sulla rivoluzione francese evidentemente ci poteva essere una discussione, come la rivoluzione americana. Così, allo stesso modo, ed era anche nel discorso che faceva prima il professor Canavero, gli studiosi di storia russa e non più di storia sovietica, cominciano a ritenere che alcuni a sostenere la tesi che il comunismo sia stata, come l'invasione degli Hyksos di crociata memoria, una parentesi nella storia russa e che quindi, più che il 1917, bisogna indagare sul 1905, dell'alta rivoluzione come data periodizzante. Quindi non dimenticate che la periodizzazione va fatta non solo sulla storia, ma anche sulla storiografia, se no. Tanto per aggiungere una cosa a questo, poi diciamo la parola. Sapete che al Congresso Mondiale di Scienze Storiche aderiscono una serie di commissioni esterne, ciascuna specializzata nell'approfondimento di determinati settori. Esisteva la Commissione di Storia della Rivoluzione Sovietica, della Rivoluzione Comunista, della Rivoluzione Sovietica. La commissione si è sciolta proprio nel momento in cui invece una riflessione storica seria sarebbe stata necessaria. Perché si è sciolta? Perché era evidentemente una commissione che avevano fortemente voluto gli studiosi sovietici per poter fare anche attraverso questo una forma di propaganda. Venuta meno l'Unione Sovietica, è venuta meno anche la Commissione di Storia della Rivoluzione Sovietica. E però c'è Barian che è sempre in giro, Sì. perché i Gattopardi esistono anche, non so. No, no, no. Non sento. Voce. Sì, però è un problema che in effetti noi abbiamo parlato di contemporaneità, ma questa contemporaneità in realtà lei tratta, parlando dell'11 settembre, gli storici hanno riflettuto sul, non tanto sull'11 settembre, ma sulla distinzione tra la contemporaneità e quello che qualcuno chiama, secondo me giustamente, che è il centro della sua domanda, il presente come storia, che è qualcosa di differente ancora, insomma, cioè è difficile, sempre stato difficile, cogliere le caratteristiche della periodizzazione intesa come transizione quando sei dentro la transizione e soprattutto quando questa transizione è estremamente lunga, insomma. Ripeto, la sensazione mia è che forse, ma ripeto, proprio una sensazione riferita al presente come storia, la fine di questa transizione post 89 la stiamo vedendo adesso, ma è proprio una sensazione perché ci siamo in mezzo. Quindi consideri che sono passati 20 anni, quindi non 2 giorni da questo. Io direi che la contemporaneità, su questo sono d'accordo, per esempio con Oxfam, la fine per certi versi di quel determinato periodo che va ancora definito il 1989-1991, poi si apre un'altra fase che proprio definirei il presente come storia, in cui si inserisce anche ad esempio l'11 settembre. Quindi io non la inserirei nella categoria della contemporaneità, la inserirei proprio in un altro tipo di categoria che è quello del presente come storia, che è proprio una tipica fase, tra l'altro, di transizione in cui i connotati sono estremamente difficili, anche per le caratteristiche particolari della guerra fredda, che è stata probabilmente la terza guerra del Novecento, ma che è stata una guerra del tutto particolare, perché è stata una guerra non combattuta direttamente tra i due principali attori, una guerra che ha avuto soprattutto caratteristiche, certo militari, ma di carattere particolare dal punto di vista militare, perché con tutto il discorso dell'arma nucleare che ne ha cambiati i connotati, una guerra di carattere ideologico ed economico soprattutto, una guerra che non si è conclusa a differenza delle altre due con dei trattati di pace e quindi con la definizione di un nuovo sistema internazionale, cioè di regole condivise, il che spiega la lunghezza per certi versi di questo processo di transizione e la difficoltà di cogliere le caratteristiche, e l'11 settembre si inserisce lì. Quindi dopo il 91 o dopo l'89 si apre un'altra fase che è veramente difficile da analizzare ed è una fase di lunga transizione ed è difficile inserire nella contemporaneità come abbiamo tentato di definirla oggi. Ecco, io sarei un po' più cauto. Sì, anche perché la riflessione storica ha bisogno di una certa lontananza dagli eventi, non perché, come spesso si dice erroneamente, perché occorre che lo storico sia asettico, quindi lontano dalle vicende politiche, economiche, sociali, perché gli storici si accapigliano tranquillamente su vicende della storia romana e dal punto di vista ideologico, e lì siamo molto lontani, no? dall'avvenimento dei fatti, ma perché mancherebbe la prospettiva storica, cioè che è quella prospettiva che permette di capire le periodizzazioni, di capire come si sono svolti i fatti nel loro lungo periodo. Io farei, non so, avete presente Stendhal nel Rosso e il Nero, no? Quando il protagonista è nel mezzo della battaglia e non capisce niente di quello che è successo, mentre chi riesce a capire sono i comandi che stanno magari su una collinetta sopraelevata, riescono a vedere come si svolgono le cose. Ecco, io l'esempio direi questo: lo storico incomincia, lo storico che è nel centro della battaglia non capisce niente, se va sulla collinetta incomincia a capire qualche cosa di più, se prende una mongolfiera e sale in alto capisce ancora di più. Ecco, questo direi come un po' come metafora per la comprensione. Oggi siamo ancora troppo inseriti in questa vicenda per riuscire a capire realmente qualche cosa. Possiamo al massimo tentare di fare una cronaca, di cercare di mettere insieme i fatti uno dopo l'altro, ma questo è un aspetto importante della storia, ma non è del tutto sufficiente per la comprensione storica. Sì, sono un po' come, avete presente i film di Michael Moore sull'11 settembre, quando portano a Bush la notizia di quello che stava avvenendo, e lui è coi bambini a raccontare la filastrocca della capretta per 7 minuti. Ecco, noi siamo più o meno la stessa. Sono come Bush che appunto la dice lunga, ma per usare metafore della letteraria che da questo punto di vista sono molto utili anche allo storico, c'è una pagina bellissima di Guido Morselli nei suoi diari del 1949 in cui si pone la domanda: ma che cos'è il comunismo? Un'esperienza di libertà o di dittatura, l'esperienza sovietica? E lui dice: lo capiremo solo quando sarà finito, alla fine, ma quando sarà finito lo capiremo. Oh, il discorso è questo. Nessuno fa altre domande. Io a questo punto magari andiamo verso la conclusione. Faccio l'ultima, se nessun altro ha da aggiungere niente. Sempre nel suo discorso di prima, lei a un certo punto ha parlato di comparazione. E ha fatto tutto l'esempio della demografia, e ok, mi è sorto un problema, nel senso, la comparazione è una cosa molto diffusa, per esempio in ambito giuridico, per cui si comparano sistemi giuridici o costituzioni, così. Comparare, cioè la comparazione applicata alla storia comporta problemi un po' maggiori o comunque, insomma, diversi, nel senso, come si fa a definire che cosa si compara, come lo si fa, questo mi... Sì, io ho parlato di comparazione con riferimento a storie settoriali, di fatti come quella appunto della storia della popolazione, perché la comparazione, così come, scendendo un attimo di livello, l'analogia è un esercizio molto divertente, ma anche molto pericoloso, perché il rischio dell'anacronismo, di comparare le pere con le mele, quindi va fatto con molta prudenza, può essere molto utile, ma bisogna contemporaneamente trovare bene l'oggetto, infatti per quello che ho parlato di storia settoriale, e poi comparare e distinguere contemporaneamente, comparare e differenziare, cioè utilizzare tutte e due le mani, perché sennò il rischio appunto dell'anacronismo e del film su Scipione con l'orologio è in agguato ogni 5 minuti. Insomma. Sì, e questo è vale anche non solo per le comparazioni, diciamo, verticali, cioè tra l'avvento di Hitler e Berlusconi, come ha detto qualche nostro politico di questi tempi, ma anche per le comparazioni orizzontali, cioè anche qui bisogna stare molto attenti a comparare vicende che avvengono nello stesso momento in paesi diversi. Esiste un settore di studi di storia comparatistica, però anche lì metodologicamente siamo proprio ancora alle prime armi. Poi non dimenticherei invece un altro esercizio intellettuale che è molto divertente, che qualcuno è molto bravo a fare, che è la storia controfattuale, cioè l'esercizio di dire: se Hitler avesse vinto la Seconda Guerra Mondiale, che cosa sarebbe successo? Se i miei studenti lo sanno, perché l'ho anche messo sul sito di Storia Contemporanea, così si può andare a vedere, c'è un divertentissimo sito di un certo Matthew White, che fa delle bellissime cartine storiche, serie, eccetera, e poi ha tutto un settore delle cartine controfattuali, per cui ce n'è una, per esempio, con tutta la storia, no? La cronologia bellissima, intelligentissimamente fatta, cosa sarebbe successo se avessero vinto i confederati nella guerra civile americana, oppure che cosa sarebbe successo se l'Australia fosse stata colonizzata dai musulmani. E sono degli esercizi veramente intelligenti, però vanno presi per quello che sono, no? Degli esercizi intelligenti di persone che devono conoscere benissimo la storia per poter fare la storia controfattuale. Bene, se nessuno ha più niente da chiedere, questa immagine dei canguri con la kefia, con il chador, chiudiamo. Grazie ai nostri ospiti che sono stati disponibilissimi e a voi che siete venuti stamattina. Come? Australia musulmana. Sì, ma è divertentissimo.